come credo. Ecco, no, mi sentite anche se non parlo qui dentro, vero? Sì. Sì. Fa più scena, l'antro risuona. Per me possiamo anche spegnere se vogliamo fare la sit down comedy. Allora, vediamo cosa avevo scritto. Vabbè, mi presentavo io, buonasera a tutti, sono musicista e giornalista musicale perché collaboro con varie testate di settore. Insegno nei licei musicali del Regno strumento, ho insegnato in scuole di ogni ordine e grado praticamente, perché ho insegnato educazione musicale alle medie, ho insegnato in conservatorio, ho insegnato per un quinquennio al Politecnico di Milano con l'architetto Lariani, che ci onora della sua presenza. E così, insomma, questa è la mia attività. Avrei voluto ringraziare il mio editore, Biblion, che mi aveva promesso che avrebbe mandato una persona, e quindi non lo ringrazio, perché non solo non c'è lui, ma non c'è neanche la persona. Abbiamo cenato insieme piacevolmente qualche sera fa, ma evidentemente si è dimenticato dell'appuntamento, oppure avrà avuto qualche impedimento del quale non sono informato. No, il problema è che dica. Sì. Quando noi oramai, certo, va bene, comunque, io non credo che sarà così. In ogni caso, questo editore, Biblion, si occupa in realtà di politica e prevalentemente, insomma, di... Ma con questo libro è caduto in una trappola. Il mio tentativo era di convincerlo che anche la musica ha una importante funzione di trasformazione sociale. Non so, non è, mi sarebbe piaciuto averlo qui, perché appunto mi ero preparato delle stilettate per lui, ma sono inutili. Allora, vediamo, adesso provo a dare lettura a delle cose che mi ero scritto. Ho scritto il pasto di Cronos per cercare di disinnescare alcuni luoghi comuni sulla musica, primo fra tutti quello che pretende che sia un linguaggio universale. Affermazione assai impegnativa e al tempo stesso disimpegnante, con cui da troppo tempo si scavalla il problema della sua natura, buttando tutto sul piano di presunti significati, presunti intrinseci e presunti condivisi. Ora, che chi è del mestiere ci creda è un peccato, perché perde occasioni di conoscenza e consapevolezza che vanno al di là di qualche piacevole emozione. Ma che grandi direttori, muti o sordi che siano, questa vorrebbe essere una battuta ma non tanto, insistano nel divulgare questo mantra è davvero increscioso, perché consolida credenze che impediscono di vedere altro che tramonti, ruscelli e uccellini. E questo è il modo in cui i ritornelli diventano dogmi, perché a furia di dirlo che la musica è un linguaggio ci si crede. Ma impediscono di vedere che cosa di più profondo la musica porti con sé. Io penso invece che sia un potente e pregnante strumento di emancipazione, per i motivi che cerco di esporre nel libro. Questo è l'indice, quasi tutti i presenti lo conoscono, ma comunque. L'attacco del primo capitolo, scherzetto, lo dico per il nostro ospite, che approfitto per ringraziare i nostri ospiti, Roberto, Stanley, il suo nome non me lo ricordo, però grazie di essere qui e di avermi accolto. Questo primo capitolo prende all'inizio ironicamente a prestito l'incipit del manifesto di Marx e Engels, Uno spettro si aggira per l'Europa, perché un po' manifesto vorrebbe essere. C'è il tentativo di riaprire il confronto su un tema che non riguarda solo gli addetti ai lavori e che la mia esperienza musicale e didattica mi dimostra essere tutt'altro che risolto. La musica è di norma consumata come un fatto edonistico, strumentale a varie altre attività, leggere, ballare, guardare film, fare la spesa, ma è anche un fenomeno ancora molto da indagare, sia sul piano psicologico e neurofisiologico, sia sotto il profilo sociologico e culturale. Anzitutto è necessario comprendere e accettare che la musica operi in un territorio non colonizzato dal logos. Cosa vuol dire questo? Che è sensata, ma non significante, cioè non ha carica semantica la musica. Con i linguaggi parlati, però, condivide un'importantissima infrastruttura, chiamiamola così per adesso, che è la prosodia. Cos'è la prosodia? Diciamo che rappresenta quell'insieme di elementi che determinano l'intonazione, il ritmo, la durata, l'intensità, gli accenti, cose delle quali tutti, consapevoli o meno, facciamo uso quotidiano nel parlare. I linguisti chiamano gli aspetti prosodici del linguaggio sovrasegmentali, perché si aggiungono a quelli fonetici, detti appunto segmentali. Ma la prosodia non è un addobbo, un abbellimento del linguaggio verbale, è un codice con sue leggi e strutture, intrecciato e utilizzato da quello verbale, e persino da quello scritto, se abbiamo ideato una punteggiatura che può cambiare il senso e anche il significato, che non sono la stessa cosa. Vediamo cosa succede spostando una virgola. Questo ve lo faccio dire dal mio assistente virtuale, la famosa deficienza artificiale. Vediamo, non so se si sente, abbiamo, sì, se l'audio è collegato. Allora, una proposizione, le parole sono le stesse. Quando Dante chiama suo fratello è molto contento. Quando Dante chiama suo fratello è molto contento. Quando Dante chiama suo fratello è molto contento. Allora, nella prima... Ah, ok. Nella prima non si capisce chi sia contento. Nella seconda è contento suo fratello e nella terza è contento Dante. Vediamo se sarà contento anche Stanley nel mio switch audio. Devo mettere questo? Sì. Ok, grazie. Ok. Nel libro c'è, racconto un caso più articolato e più connesso al fatto più strettamente musicale, che ho chiamato il caso Giusi. Non ve lo racconto, e chi ha il libro lo conosce, chi non ce l'ha se lo compra. Ora, mentre il codice verbale non può mai fare a meno di quello prosodico, sentite la curva intonativa, quello prosodico, questo si intende. Il contrario è possibile. Cioè noi possiamo dare un ordine o fare una richiesta senza utilizzare parole o fonemi riconoscibili. Basta un'inflessione vocale. Oh, ad esempio. L'irruzione continua del prosodico nel verbale è evidente nella modulazione di ognuna delle nostre voci. Quelle che chiamiamo interiezioni, ad esempio, tendono addirittura a negare il verbale. Quando esclamo «Ah!», la componente prosodica esclude quella linguistica, ne frantuma la barriera per entrare in un altro dominio. Pensiamo all'universo comunicante del bambino, il cosiddetto madrese. Non vi faccio il verso perché ce l'avete in mente, che è una delle tipiche esasperazioni che servono a rendere espliciti i versi utilizzati e insegnano a riconoscere prima ancora delle parole le intenzioni. Qui si apre un file che non apro. Insomma, dobbiamo sempre fare i conti con la mimesi prosodica. Il linguaggio prende dalla prosodia, la quale a mio avviso preesiste, ne parlo nel capitolo intitolato Ypsilon, tutte quelle inflessioni dell'intonazione che vivono nella musica, comprese quelle che la linguistica anglosassone chiama vocalizations, che sono particolarmente difficili per noi, nasalizzazioni, gutturalizzazioni, tutte queste. La La prosodia governa però anche la agogica, cioè l'insieme delle transizioni di velocità con le quali si determina la posizione dei suoni. Se ne parla in musica di posizione dei suoni, cioè quando è opportuno eseguire quella certa nota all'interno di quella certa frase. Pensiamo a quante cose si possono scoprire di una persona anche solo ascoltandola parlare al telefono. Anzitutto sesso, età, provenienza, grado di cultura, stato d'animo, se mente, se è agitato, è un po' il campo del tenente Colombo questo, però la voce rivelatrice di queste e molte altre cose. Certo, il codice prosodico è condizionato culturalmente, cambia da gruppo a gruppo sociale. Leo Janáček, un compositore ceco, diceva: sento la musica costantemente nel vuoto silenzio, mentre l'intelletto è fermo, cioè non c'è pensiero. Trascriveva le melodie parlate per coglierne tutte le inflessioni e il suo scopo dichiarato era strappare quelle maschere che l'uomo indossa proprio attraverso il linguaggio per celare passioni, debolezze e la propria natura. Dunque la prosodia è una sorta di esoscheletro del verbale e la musica la distilla, la moltiplica, è uno zoom sul senso, un microscopio sulla natura dell'espressione umana depurata dal significato. Facciamo un esempio pratico di questi rapporti tra prosodia verbale, nel verbale e nel musicale, servendoci dell'ungherese, la lingua non indoeuropea più parlata d'Europa. Tra l'altro mi hanno spiegato che in ungherese non si dice il cane è di Marco, ma il cane da Marco esiste, cioè non hanno il verbo avere, non usano il verbo avere, è una cosa piuttosto curiosa che non sapevo. Comunque, il punto interessante dell'ungherese è che è una lingua ricca di parole con l'accento sulla prima sillaba, come kerem, per favore, o zeretlek, ti amo. E la sua musica tradizionale spesso riprende questo aspetto che si esaspera in movenze tipiche. Vi faccio sentire un esempio prendendo a prestito una delle danze ungheresi di Brahms. Se tenete a mente questo accento, zeretlek, zeretlek, vedrete che lo ritroverete in maniera impressionante in queste... esecuzioni. Lo fermo perché insomma l'esempio è chiaro. Allora, cos'è successo qui? È entrato il linguaggio nella musica o è entrata la musica nel linguaggio? Nessuno dei due. La prosodia si è tolta il mantello del significato e danza nuda e cruda. Non dice più nulla. Prende il nostro corpo ballerino, come lo chiama Carlo Sini, e se lo porta via. Secondo Darwin, la musica nasce proprio dal modello animale di corteggiamento estetico e di scelta sessuale. Le arti musicali sarebbero le discendenti della protomusica di questi antenati semi-umani. Le cui accentuazioni vocali nelle manifestazioni prelinguistiche dovevano già caratterizzare i gruppi sociali. Il silenzio era da esprimere, esattamente come per noi. La musica però può non implicare un'aspirazione a comunicare, ma anche soltanto a dare tangibilità a un sentire non altrimenti esprimibile. Allora se usciamo dalla metafora, forse riusciamo ad entrare nella realtà dell'esperienza alinguistica della musica, avulsa dal patto significante-significato. Qui domina il confronto con l'esperienza corporea, la trasmissione di informazioni sensoriali al sistema nervoso centrale, cervello, per chi ce l'ha, e midollo spinale. Allora, io qui adesso io posso andare avanti, volevo fare un esperimento, non so se voi vi prestate, provo a proporvelo, un piccolissimo esperimento di, diciamo così, di coordinazione di un'azione di gruppo. Ve lo spiego, poi se non avete voglia non lo facciamo. Che cosa succede quando il direttore d'orchestra dà una... C'è un gesto che è chiamato tecnicamente parametrico, no? E che cosa succede? Tutti avete in mente i concetti di battere e elevare, no? Arsi e tesi, si chiamano così in musica. Sono, a volte fanno anche fare confusione. Io spesso con alcuni miei allievi non li chiamo battere e elevare, ma destra e sinistra, cioè uso l'oscillazione pendolare, in certi casi non chiamo. Ma il direttore d'orchestra fa sempre questo gesto. Che cosa fa? In realtà prende a prestito una nozione di fisica sperimentale incarnata che non dispone a tutti. Allora immaginiamo che abbia qui davanti un piano orizzontale. Questo piano orizzontale io voglio far rimbalzare una pallina. Se io sollevo questa pallina e la lascio cadere su questo tavolo, tutti possiamo predire esattamente il momento in cui toccherà il tavolo. Non è difficile, perché ne abbiamo un'esperienza fisica che è nella nostra natura. Allora, se adesso io faccio un esperimento e mi chiedo di dire boom quando la mia pallina toccherà il mio piano orizzontale, che è questo, io faccio un levamento e lascio cadere la pallina, lo faccio proprio con il gesto, faccio questo gesto, levamento con pallina, e cerco di imitare con il gesto lo slancio gravitazionale, il peso dell'oggetto. Cioè, come se lanciassi la pallina. È come se io sollevassi la pallina e poi la lasciassi cadere, però la seguo. Okay. E noi diciamo boom quando la pallina tocca il tavolo. Okay. Levare metrico. Boom! Boom. Ora? Boom. Boom! Ancora? Perché non ci tu, scusa? Lo devi dire. Con voi. E lo devi dire, se no è proprio magico. Boom! Boom! Boom. Boom! Boom! Attenzione, il tavolo è qui. Ah, è lì. Ah, non è solo. No, aspetta. Anch'io aspettavo. Il tavolo è qui. Di nuovo, se no mi devo inginocchiare. Boom. Boom. Ah, adesso sì. Boom. Ok, e se accorcio il gesto? Boom. Ah. Boom. Questo è quello che fanno i Berliner Philharmoniker. Ok, è una magia, sembra una magia. È un tipo di coordinamento che fa proprio leva su questa nozione di fisica sperimentale incarnata, un dato esperienziale. Come la differenza tra ternario e binario, per esempio il battito cardiaco è? Quaternario. Com'è? Il battito cardiaco è ternario in realtà, perché sistole, diastole, pausa, sistole, diastole, pausa, tutum, un, tutum, un, tutum, un, tutum, un. Sono tre gli eventi, eh? Il passo è binario e così via, ne abbiamo esperienza di queste cose. Vabbè, negli anni 20 del secolo scorso, voi fermatemi quando siete esausti, perché io non... Negli anni 20 del secolo scorso, il regista russo Lev Vladimirovich Kuleshov dimostrò l'influenza del montaggio su un fenomeno cognitivo legato alla comprensione di una sequenza cinematografica, generando tre diverse combinazioni. Allora, ha usato la foto di questo signor Motsu, che è un grande attore russo del secolo scorso, con sequenza 1, foto di Motsukin, piatto di zuppa, in modo che sembrasse che la stesse guardando. Sequenza 2, identico primo piano, una donna in una bara. Sequenza 3, identico primo piano, una bambina che gioca con un orsacchiotto, poniamo. L'espressione era sempre la stessa, ma le sensazioni del pubblico cambiavano. Questo si chiama effetto Kuleshov. È l'esempio più classico di sintassi filmica attraverso la manipolazione del contesto, cioè il pubblico proietta le proprie emozioni sul volto dell'attore. Naturalmente con la musica si possono attivare meccanismi analoghi. e ne conosciamo tantissimi, orientando le nostre interpretazioni e la comprensione dei fenomeni. È dimostrato, ad esempio, che la cosiddetta Muzak, la musicaccia che si diffonde nei supermercati, incrementi gli acquisti perché distoglie dai pensieri e abbatte le inibizioni, come quella che è usata nei ristoranti, che poi ho scoperto che è usata come mascheramento. Quando ti dicono che non possono abbassare o non possono toglierla, io non entro di solito perché mi dà fastidio, però so che serve per non far sentire le conversazioni del tavolo vicino, così mi hanno spiegato. Boh. Ho fatto un esperimento elementare, se volete proviamo a farlo. Con la stessa immagine voi potete, poniamo, ecco, lo facevo con dei ragazzi delle medie questo gioco, facevo vedere un'immagine con una musica di commento. Che in questo caso è un brano di Luigi Nono, dato che è il centenario della sua nascita. Ascoltiamo un attimo. A floresta e jovem e ciesa de vida, si intitola. Della vostra pazienza, ma avete capito il carattere. Proviamo adesso a vedere la stessa immagine con un altro. Qualcosa è cambiato immediatamente, no? Immediatamente. Ma quali sono i riferimenti di cui disponiamo per porci all'ascolto della musica? Di solito, quando si va a questi famigerati corsi di guida all'ascolto, oppure alle presentazioni, ai dépliant che ci dicono, ci introducono ai concerti, i titoli, le biografie dei compositori, i contesti storici, sì, sono tutte cose molto importanti. Ma sulla musica che cosa ci dicono? Praticamente niente, non si parla della musica, si parla di cose intorno, no? Quanti figli aveva Bach, e quanto è morto giovane Mozart, eccetera. E, cioè, praticamente i riferimenti letterari diventano un rifugio e offrono una chiave all'esperienza dell'ascolto che non si sa mai dove infilare, non si infila di fatto. Ci aggiriamo come pugili suonati in un luogo senza porte, né finestre, né confini, perché c'è solo una corrente alla quale abbandonarsi. Si cambia scenario, è un po' come arrivare al mare con l'automobile e pretendere di entrare con la macchina dentro l'acqua. Non puoi, no? Devi scendere, ti devi spogliare, devi entrare, devi galleggiare, muoverti, se ce la fai nuotare fino alla boa e... Se hai la fortuna e il coraggio di provare a guardare sotto la superficie, scoprire un mondo completamente alieno. Adesso, altro piccolo esperimento. Vi faccio ascoltare un secondo di un brano di Mozart che si intitola Grande festa nel sole. Facendo tutto a velocità per due. Questo brano, Grande festa nel sole, In realtà si intitola Eine kleine Nachtmusik, che vuol dire piccola serenata notturna. Ora, che scherzo è questo? Quindi se noi obliteriamo il titolo, che cosa resta? Cioè che cosa emerge alla nostra comprensione? Questo è un esperimento da compiere in solitudine, vi suggerisco di farlo, perché effettivamente avrei altri esempi che vi risparmio, un po' più corposi, ma... il discorso naturalmente non vale solo per la musica tonale, vale anche per la musica atonale da Schoenberg in avanti, a patto che ci si doti di qualche strumento in più, di qualche concreta chiave interpretativa, perché con i criteri che noi consideriamo usuali, che sono quelli del nostro sistema del temperamento equabile, bimodale, basato su date determinate gerarchie armoniche che noi conosciamo dalla nascita perché vi siamo stati immersi continuamente, sono però un fatto culturale, non sono una cosa naturale, non lo sono per niente per un bambino indiano, per esempio. La musica indiana vive di criteri completamente differenti, che non sanno neanche che cosa sia il temperamento. Vabbè, adesso però non apro questa parentesi. Facciamo un'altra, vi propongo un'altra esperienza, perché la domanda anche che mi sono fatto è se bastano per comprendere il senso della musica le cosiddette, le famigerate emozioni, perché quando sentiamo davvero questi grandi... Io quando sento Muti parlare di musica provo imbarazzo per lui, perché è impressionante che un direttore che ha sicuramente delle grandi doti, nessuno dirige l'opera come lui, però ammette molto spassionatamente di non capire cos'è la musica. Dice, boh, è fra le note, non lo so dov'è. E poi ci si rifugia sempre lì. È un linguaggio universale che fa tanta emozione. Ecco, è veramente imbarazzante. Cito lui perché è tra i più noti. Ho sentito un'intervista a Pappano in Rai qualche sera fa che ha fatto morire da ridere il mio panettiere. Non si poteva ascoltare. Antonio Pappano, un altro direttore adesso molto, molto in auge. Ma vivere il processo significa seguire flussi e tensioni, chiedersi dove vanno e farcisi portare attraverso conflitti e risoluzioni verso una forma di liberazione da queste perturbazioni prodotte ad arte, avendo fatto magari la strada per mano a Beethoven. Ma ripeto, vale anche per la musica atonale tutto questo. Dunque, se è vero che in musica non c'è ricaduta su un oggetto, può esserci quello che chiamiamo un soggetto. Ma chi è questo soggetto? Vorrei provare a farvelo sentire, a vedere quali azioni compie, dove vuole portarci, in quale direzione, cioè a dire propriamente in che senso. La parola ha un'altra volontà, la parola vuole dire. Infatti ci chiediamo che cosa vuol dire questa parola, vuole dire. La musica vuole orientare, attraversando un territorio che ha una sua specifica morfologia. La chiamerei una topofonia. Quando un paziente, purtroppo ne ho esperienza personale, si riprende da un trauma, i medici dicono il paziente è sveglio e orientato. Orientato, questa è la parola. E qui chiedo aiuto però a una simpatica pianista giapponese che si chiama Kimiko Ishizaka, che è anche campionessa di sollevamento pesi, ma personaggio pazzesco, infatti le ho scritto e sto aspettando che mi risponda, perché io avevo preparato per farvi fare l'esperienza, diciamo, di seguire un soggetto e capire poi alla fine chi è questo soggetto e perché si chiama così, avevo preparato una partitura. Diciamo ingenuamente avevo questo è uno dei contrappunti dell'arte della fuga di Bach. Voi vedete ci sono quattro righi, sono le quattro voci, avevo segnalato gli ingressi con colori diversi eccetera, poi però mi sono detto ma la maggior parte della gente che avrò davanti non saprà leggere la musica, e allora mi è venuta in aiuto e qui è un po' più questa bravissima pianista giapponese che ha fatto un lavoro interessante, che vi invito a guardare un attimo e a fare questo gioco con me, no? Che cosa succede? Qui voi vedrete scorrere le quattro tracce come se fossero quattro pentagrammi, e sono i quattro ingressi dei tre temi e delle risposte, insomma, dell'altro. Chiamiamoli per adesso quattro soggetti, sono quattro temi che entrano nell'ordine, nelle quattro voci antiche, dal basso, tenore, contralto e soprano. E sono diversamente colorati. Vedete spuntare il basso è blu. Adesso vedrete gli altri colori. Vi invito a scegliere un colore, perché queste palline che vedrete animarsi rappresentano gli eventi sonori. Nella mia versione io l'avevo strumentata con quattro strumenti diversi in modo che fosse più semplice seguirla. Qui è suonata il pianoforte, ma risulta più evidente perché ci aiuta l'aspetto visuale. Magari provate a scegliere un colore. Il blu è il basso, adesso vedremo entrare, lo faccio andare appunto nell'ordine, il tenore, il contralto e il soprano. Vi scegliete un colore e provate a seguire gli eventi, uditivamente proprio. Entra il basso, puoi alzare un po'? Tenore, verde. Il basso va avanti per la sua strada. Contralto, giallo. Soprano, arancio. Fermo perché è anche tardi. Comunque, diciamo che questa esperienza di farsi soggetto, io l'avrei tirata un po' più in lungo, ma è proprio quello che ci sono due endecasillabi di Dante memorabili, secondo me, nel Paradiso, che dicono: già non attenderei io tua dimanda, se io m'intuassi come tu ti immii. Cioè, sentite cosa fa al linguaggio sto diavolo. Se io mi intuassi come tu ti immii, queste torsioni, le prende proprio per i capelli, le sbatte contro il muro, se non avessi capito, no? Dice. E che cosa? Qui c'è tutto il senso dell'empatia. È spiegata. Che cos'è? È intuarsi, no? Che cosa ci chiede? Allora, che cos'è questo soggetto? Io non so se siete riusciti, ma immagino di sì, a seguire una voce per la sua strada. C'è qualcuno che di musica magari ne sa di più. Però che cosa succede qua? Si vede che questo mezzo, cioè la musica, prende, porta e spedisce. Perché? E dove soprattutto? Anzitutto in un diverso rapporto con il tempo. Platone lo definiva ordine del movimento. Ma che tipo di ordine ancora? Un ordine nel caos della radiazione acustica nella quale siamo perennemente immersi, che porta a segmentare naturalmente altezze, a disporle in forme composte, più o meno riconoscibili, non importa. E quale tipo di movimento? Che cosa si muove? Il suono. Allora, la fenomenologia musicale dice una cosa interessante. No, si muove la coscienza, che non è sbagliato. consapevole o meno, nei modi e nelle direzioni si muove, nei modi e nelle direzioni verso la quale questa musica è orientata. Paradossalmente sperimentiamo una atemporalità proprio nell'attraversare momenti consecutivi per poi ridurli a una sola entità, nella quale l'inizio e la fine coesistono, si tengono. Cioè il percorso da A a Z è un percorso unificante. Io la chiamo la differenza tra contare e cantare. Sono due esperienze molto diverse. Lo scopo è quello di restituirci la consapevolezza di queste tensioni affinché le riconosciamo in noi e possibilmente di scioglierle in un processo che le dipana e ce ne libera. Non ha significato, ma senso, rotta e meta. E questa meta è anche la metamorfosi di chi compie il viaggio, che non è solo il compositore, colui che suona, ma è anche colui che ascolta, colui che si abbandona a questo fenomeno. Può servire chiedersi che differenza c'è, se qualcosa è cambiato tra il silenzio che c'era prima dell'inizio e il silenzio dopo la fine. Sono due silenzi di qualità differenti. Cioè, la domanda è: quanto dura davvero un brano di musica? Può durare 3 minuti, però c'è una qualità in questi minuti che fa sì che molte di queste avventure, di queste gite nel mondo della musica, ce le portiamo dietro per tutta la vita. Allora non è il tempo dell'orologio, non è la stessa cosa. Forse è quello che successe ad Ulisse con le sirene, vicenda che racconto nel capitolo La portante prosodica, dove Omero segnala una differenza importante tra la percezione della voce e quella del canto, perché fa dire a Odisseo: ma quando le superarono, parliamo delle sirene, e più non s'udiva la voce delle sirene né il loro canto, subito i fedeli compagni la cera levarono che gli spalmai sulle orecchie e dagli funi mi sciolsero. In quel né, cioè la voce né il canto, Omero segnala la differenza tra udire la voce e udire il canto. Quale sia la differenza, ho cercato di scriverlo a pagina 53. Adesso non possiamo eccedere. Però, tempus edax rerum, appunto, il tempo divora tutte le cose. La musica però non è una cosa, non è reificabile, si sarebbe detto, non è cosificabile. Usa il tempo per costruire le sue forme, ma non è divorabile. Resta in noi anche dopo l'ascolto. Quindi è la musica che divora il tempo. Il tempo casomai divora noi. Cioè, il filosofo von Weizsäcker, che era un amico di Stockhausen, ha scolpito questa sintesi che per me è bellissima e che spiega molte cose. Dice: non sono le cose che esistono nel tempo, ma il tempo nelle cose. Questa carica orologeria che conosciamo tutti. Allora, siccome è tardi, io non voglio davvero approfittare troppo della vostra pazienza e del vostro tempo, però prima salto qui delle cose sullo stato, che molto interessanti secondo me, sul fatto che sia possibile pensare a qualcosa non avendo le parole, cioè pensare a qualcosa in assenza delle parole è possibile senz'altro. Il pensiero esiste, anche dove non esiste la parola. È chiaro che noi, quando impariamo a leggere e scrivere, diventiamo una macchina che non può più disimparare a farlo. Cioè, se io disegno una A su questo schermo, noi tutti siamo... è un riflesso pavloviano, non possiamo fare a meno di leggerla. Questo non vuol dire che il pensiero viva soltanto laddove c'è la parola. Basta pensare a un odore, ecco. Adesso io poi approfondivo questo argomento, ma non possiamo farlo adesso. Vi faccio soltanto sentire due ultime cose rapide. Una è una scoperta molto interessante di una docente della Università della California che si chiama Diana Deutsch, che ha fatto un esperimento intitolato Speech to Song Illusion. Che cos'è? Allora, ve lo descrivo rapidamente. Fa ascoltare una frase pronunciata normalmente, in questo caso in inglese, ma non importa che capiamo che cosa dice. E poi una parte della stessa frase più volte. Dopo aver fatto questa esperienza, risentiamo la frase esattamente come l'abbiamo sentita la prima volta. Ma quando arriverà la parte ripetuta, vi accorgerete che succede qualcosa. Frase completa. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. But they sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. So strangely. So strangely. So strangely. So strangely. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. Curioso, no? È successo qualcosa, vero? Allora pare che nel discorso i circuiti neurali alla base della percezione dei toni siano inibiti proprio per focalizzare l'attenzione sul significato verbale. Ma la ripetizione delle parole può disinibire questo circuito, così che vengano percepite nel loro nudo carattere di altezza, intensità, timbre e durate. Questa sembrava quasi cantata, questa porzione di frase. È un fenomeno molto interessante, adesso non possiamo assolutamente approfondirlo. Se lo accettate, vi lascio con un'ultima cosa divertente, diciamo così. Divertente e anche abbastanza... questa è la trascrizione in notazione della frase ripetuta che è diventata una canzone. Un violinista bulgaro, Moni Simeonov si chiama, ha fatto questa cosa che a me fa morire da ridere, ma è davvero interessante per il discorso che non possiamo adesso approfondire, ma sicuramente può essere di stimolo. Vediamo se... Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. Ok, a parte le cose deliranti che dice, è interessante l'aspetto appunto della curva intonativa, delle inflessioni, cioè di questo apparato prosodico che sfruttiamo per rendere... per sottolineare il peso delle parole utilizzate all'interno di una frase. Questa è una cosa che davvero ha in comune con la musica, il linguaggio verbale. Ma ancora una volta, la cosa importante per me è capire che non è assolutamente la stessa natura. È, c'è un changing of kind, diceva Bertrand Russell, un passaggio di stato, è come il passaggio dallo stato ghiacciato a quello liquido. Ecco, forse è questo, no? Il ghiaccio che diventa acqua. La sostanza è comparabile da un punto di vista chimico, ma lo stato è molto differente. Se ti tiro un bicchiere d'acqua non ti faccio male, con un ghiacciolo sì. Io poi avevo delle considerazioni sul fatto che la musica fosse o meno comunicazione. Mi sono chiesto spesso, siccome la vita di un musicista, diciamo che un musicista nella sua vita passa incomparabilmente più tempo a suonare da solo che non davanti a un pubblico, e mi sono chiesto spesso con chi stiamo comunicando in quella parte di vita, se siamo soli. Allora la musica non è solo comunicazione, anzi forse è soprattutto qualcos'altro. Tutte queste riflessioni, molte delle quali sono approfondite nel libro, altre magari un po' meno, mi hanno portato a una conclusione che adesso vi risparmio perché giuro finisco e mi direte se avete qualcosa da dire, al fatto di pensare che è proprio il termine musica sia un po' disinnescato, un po' tradito, ecco, che nasca da un mito che è stato tradito ed è morto anche secondo me. È solo che non si riesce a occultare il cadavere, diciamo, no? Perché la musica, se è l'arte delle muse, vorrei sapere, le muse, almeno nella numerazione classica, erano 9, no? E qui adesso sono tutte segregate, separate, cioè penso che oggi più che mai non si possa più fare musica solo con la musica. Ecco, questo è un po' il segnale poi che diffondo, spero, come una, non una malattia, ma qualche cosa che si possa. Bisogna imparare a servirsene per organizzare una grande vibrazione che è molteplice, non è più fatta, non può essere fatta soltanto di suoni o non soltanto di suoni che portano, che spostano l'aria, ecco. Bisogna anche saperci guardare dentro, insomma. Volevo ringraziare, anche se siamo fra amici e un po' pochissimi, il professor Sini che mi ha fatto sapere che sarebbe venuto volentieri, ma adesso abita a Varese, non se la sentiva di spostarsi. Lo ringrazio davvero perché devo dire che lui mi ha sempre incoraggiato in queste. Poi, insomma, qui sono presenti due persone molto importanti per me, grandissimi amici, l'architetto Lariani e il dottor Nepoti, che mi hanno anche aiutato in questo, diciamo, in questo percorso, perché con loro ho un confronto e conversazioni su questi temi da tantissimi anni, e le loro osservazioni sono sempre state preziosissime e li ringrazio moltissimo anche di essere qui, perché in questa immensa folla riconoscerli in prima fila mi ha molto sostenuto. Grazie.